chissà se a Londra va ancora in scena l'Ambassador Theatre o altrove The Mousetrap, la trappola per topi, la celeberrima commedia gialla di Agatha Christie che, essendosi presentata al pubblico per la prima volta il 25 novembre 1952, ha battuto tutti i possibili record di permanenza ininterrotta in scena. L'ultima volta di cui ne ho avuto notizie sicure correva, credo, l'anno 92, e i giornali riferivano che la compagnia aveva solennemente celebrato il 40° anniversario della prima. I critici hanno sempre snobbato quel testo come un tipico esempio di teatro gastronomico, come un'opera di facile, facilissimo consumo, dagli standard irrimediabilmente datati. Lo erano probabilmente già nel 52. Ma questo non ha mai impedito il suo successo, alimentato specialmente dal flusso di turisti americani di passaggio per Londra, nei programmi dei quali sembra una serata, una matinée all'Ambassador o al St. Martin o un altro dei locali che vi avevano ospitato la trappola per topi, ormai raggiunto lo stesso grado di imprescindibilità della visita alla torre o del cambio della guardia di Buckingham Palace. Per cui, anche in mancanza di informazioni precise, posso arrischiarmi a prevedere che la trappola per topi festeggerà tra breve il mezzo secolo di vita. La tradizione è sempre la tradizione. Personalmente, le poche volte in cui ho avuto... le poche volte in cui ho avuto occasione di metter piede nella capitale inglese, non ho mai avuto tempo o occasione di andare a vedere quella commedia, ma non certo per disprezzo o per mancanza di interesse. E voi sapete che considero la Christie una delle grandi autrici del secolo e Trappola per topi indubbiamente uno dei suoi testi più ingegnosi. E poi è una commedia che mi è particolarmente cara perché mi ricorda il mio unico fugace flirt con il teatro, quando frequentavo il liceo, il ginnasio anzi. Alcuni giovanotti di belle speranze che ambivano costituivano una filo drammatica di scuola e si erano baloccati con l'idea di metterla in scena e mi avevano offerto, in considerazione quello del mio giro di vite, da parte del maggiore Metcalf. L'idea fu poi abbandonata perché prevalsero elementi più intellettuali che imposero la sostituzione del progetto con quello di una vettura drammatica di Piccola città di Thornton Wilder, in cui l'unico ruolo disponibile era quello del becchino Stoddard, molto meno gratificante. E comunque poi non ebbe seguito. Peccato, perché avrei potuto diventare un divo del palcoscenico e, se non altro, queste mie prediche domenicali vi sarebbero risparmiate. Ma se vi parlo di Trappola per topi, naturalmente non lo faccio per inseguire le mie reminiscenze giovanili che non credo vi interessino più che tanto. Lo faccio perché mi è giunta notizia, in ritardo, di cui mi scuso, che la settimana scorsa qui a Milano, al nuovo Piccolo Teatro, hanno dato una commedia, L'Arlecchino servitore di due padroni, di Carlo Goldoni, nella ben nota regia di Giorgio Strehler, e mi è venuto in mente che, a patto di questa nostra tradizione ambrosiana, a Londra sono dei poveri dilettanti. Insomma, l'Arlecchino di Strehler quest'anno festeggia i suoi bei 52 anni e per i milanesi della mia generazione rappresenta l'unico elemento di continuità in una realtà che si è trasformata mica poco. È l'unica eredità culturale che dal 47 oggi ci portiamo dietro con la dovuta reverenza. Io mi ricordo di averlo visto da piccolo in televisione in bianco e nero, quando ancora stare alzato a vedere la televisione era un'esperienza da ricordarsi, e di essere stato portato a vederlo come studente di scuola media insieme a una flotta di condiscepoli riottosi, d'averci accompagnato anni dopo come insegnante una serie di classi altrettanto riottose, persino di esserci andato una volta per conto mio a teatro a vederlo, non ricordo in quale delle sue 8 incarnazioni. E l'Arlecchino non è un'opera di consumo da proporre a un pubblico di turisti perché fa atmosfera o perché così vuole la tradizione, e questo ruolo, ahimè, è finito per toccare alla Scala, che se non altro però cambia repertorio ogni anno. L'Arlecchino è un caposaldo della regia contemporanea, è un esempio memorabile di come rivisitare con mentalità moderna la rivisitazione goldoniana della commedia dell'arte, rivestendo di imprevedibili attualità le vicende di Beatrice, Florindo, Pantalone, Silvio, Clarice, Brighella, Arlecchino, Smeraldina. La differenza che separa la trappola per topi dall'Arlecchino, insomma, è quella che separa l'opera di consumo dall'opera di cultura, con tutte le sue brave maiuscole. È vero che qualche riottoso potrà sempre chiedersi che senso ha riproporre lo stesso spettacolo anno dopo anno a una città che ha cambiato pelle tante volte, passando dal centro industriale un po' smozzicato del dopoguerra alla città dei Cumenda del miracolo economico, dagli operai alle modelle, dagli anni della contestazione a quelli del terrorismo, dalla città da bere a quella da buttare, dalla borghesia illuminata a quella che vota per il pavone Albertini. E qualcuno potrà rimpiangere magari i tempi in cui la produzione artistica, musicale, teatrale, cinematografica si giocava anche nel senso di un rinnovamento ogni tanto, di una ricerchina, di qualcosa che senza sfociare necessariamente nell'avanguardia, che però ha un ruolo anche quella, sappia riaggiornare i modelli, sappia riproporre ai fruitori ogni tanto qualche nuova idea. Chi si abbandonasse a questi rimpianti dimostrerebbe di non avere capito che cos'è la nostra Milano di oggi. Noi milanesi di oggi, guardiamoci pure negli occhi, noi non desideriamo novità. Ne abbiamo paura. Le vediamo soprattutto come delle minacce, come il portato di un'invasione strana a cui bisogna sforzarsi di arginare. E siamo paghi dal punto di vista culturale della conclamata eccellenza delle due o tre istituzioni che sono riuscite a sopravvivere, e ad essa sacrifichiamo qualsiasi tentativo, peraltro sgradito, di rinnovamento. La riproposizione periodica dell'Arlecchino di Strehler ha un valore rituale. Prefigura un futuro, ormai imminente, in cui al piccolo si reciterà sempre la stessa commedia, alla Scala si canterà sempre la stessa opera, al conservatorio si suonerà sempre lo stesso concerto e a Radio Popolare si sentiranno sempre le stesse rubriche, caccia compresa, e le stesse conduzioni, perché naturalmente non sono soltanto i topi che rischiano di finire in trappola.